Allora io vi do il Anche benvenuto, troppo. riprendiamo le nostre attività, iniziamo il 2011 all'insegna della suspense, di un romanzo avvincente che presentiamo questa sera. Ringrazio e saluto anche da parte dell'assessore Tomasini i nostri ospiti. Inizio da Alessandra Zendron che cura la parte introduttiva e di moderazione, ci accompagna in questa presentazione. È una persona su cui possiamo contare, abbiamo già avuto altre occasioni di collaborare insieme e sono state delle serate molto interessanti e piacevoli. Saluto i nostri ospiti, con Marco Niro e Mattia Maestri. Devo leggere perché in realtà loro insieme il binomio forma così l'autore unico che è Tersite Rossi. Poi non dico altro. Vi do solo delle indicazioni. Mattia Maestri è insegnante di storia e filosofia, mentre Marco Niro è giornalista. Abbiamo scelto così, su indicazione anche di Alessandra Zendron, di presentare questo libro qui in biblioteca perché comunque riguarda un periodo di storia moderna e contemporanea che ci ha sicuramente visto partecipi, ci ha coinvolto e soprattutto i due autori sono di origini trentine, quindi anche il romanzo è ambientato in Trentino. Io vi auguro una buona serata e soprattutto vi posso dire, ecco, che non mi sbilancio mai, però è veramente avvincente. Continua ad uscire ad entrare, quindi questo libro abbiamo registrato numerosi prestiti e ecco, ti do la Grazie. parola a voi. Grazie Grazie. mille. Grazie alla direttrice della biblioteca. Bene, io non so se voi avete, se qualcuno l'ha già letto, però io così ho pensato di raccontarvi un po' che, diciamo, quello che sono state le mie impressioni nella lettura di questo libro. Tersite Rossi mi aveva chiesto, noi scriviamo tutti e tre per questo Trentino, io da una ventina d'anni e loro invece proprio adesso fanno parte di questa redazione rinnovata e questa rivista di politica e cose varie del Trentino che è sopravvissuta a tante altre riviste che sono poi. E io avevo accettato a scatola chiusa, avendolo solo guardato ma non letto, e poi devo dire quando l'ho letto mi ha molto sorpreso, mi è molto piaciuto. Io sono una persona che legge tanti libri perché appartengo a una generazione in cui non si guardava la televisione ma si leggeva e quindi insomma ho mantenuto questa abitudine. E devo dire che insomma è un libro che mi ha sorpreso e poi anche mi è molto piaciuto. Perché rientra in un concetto di, tra virgolette, romanzo storico, che ultimamente è diventato anche un concetto su cui molti studiosi di letteratura soprattutto, insomma, di cui si interessano, di cui scrivono. No? Io ho pensato, diciamo, ultimamente ho letto Der Turm di Uwe Tellkamp, che credo sia stato edito adesso in Italia con il titolo La Torre, che è un libro che racconta la storia della DDR, ambientato a Dresda e così, è un libro che in Germania ha fatto furori, effettivamente è un romanzo che attraverso il racconto però, diciamo, racconta un pezzo di storia che è molto difficile trovare nei libri di storia. E poi un altro autore a cui mi ha fatto pensare era Javier Cercas, di cui ho letto I soldati di Salamina anni fa, su consiglio fra il resto di una storica, Anna Bravo, che anche voi sicuramente conoscete e che era anche mia amica, e che ultimamente ha pubblicato un libro intitolato Anatomia di un istante, anche questo appena tradotto. In cui racconta il tentativo di golpe del 1981 in Spagna, subito dopo che era tornata la democrazia, e questo scrittore, che fra il resto è un docente di letteratura, appunto, ricostruisce e si pone anche il problema del rapporto tra il romanzo storico e il libro di storia. E a questo proposito mi permetto, poi chiudo con questa parte di libri che però volevo fare, visto che siamo in una biblioteca, mi sembra giusto iniziare in questo modo. E vi volevo leggere due righe di un articolo molto carino che casualmente proprio qualche giorno fa è apparso su Repubblica Cultura di Javier Cercas, proprio, in cui lui presenta questo suo ultimo romanzo Anatomia di un istante e si pone questo problema. E lui dice, scrive, vi leggo solo queste due righe, anche se tutto l'articolo è intitolato Il romanzo da lezioni di storia, e dice... La storia e la letteratura perseguono in linea di massima obiettivi diversi, entrambe cercano la verità, ma le loro verità sono opposte. Come sappiamo da Aristotele in poi, la verità della storia è una verità fattuale, concreta, particolare, una verità che cerca di fissare quanto è avvenuto a determinate persone in un determinato momento e luogo. Al contrario, la verità della letteratura è una verità morale, astratta, universale, una verità che cerca di fissare ciò che avviene a tutti gli uomini in qualsiasi luogo e momento. E poi lui dice che di Anatomia di un istante, appunto, del suo libro, dice che è al tempo stesso quelle due, e cioè persegue al tempo stesso quelle due verità contraddittorie, dicendo che è un ibrido, e poi dicendo che Cervantes ha costruito il primo ibrido e che da allora il romanzo è sempre un ibrido, eccetera. Vabbè, adesso non voglio annoiarvi con queste cose qua. Invece torniamo al libro di Tersite Rossi, poi loro ci spiegheranno perché è una delle domande frequenti che viene loro posta e non la voglio svelare, il perché di questo nome che si sono dati, di questo pseudonimo che è stato presto svelato. E dunque è un romanzo storico che racconta però storie di vita di persone che sono, come è giusto in un romanzo, inventate, e intrecciano due filoni, due storie, diciamo, a loro volta, diciamo, una più singola di una persona e l'altra plurale di un gruppo. E poi ci sono comunque anche altri personaggi. Poi, parentesi, ho visto nel vostro sito che avevate scritto ancora tanti altri, mi avevate fatto tagliare il libro a 470 pagine, quindi non so quanti dovevano essere prima. Chiusa. Meno 100 in più. Meno 100 in più. Però devo dire che si legge rapidamente come un libro piccolo, loro, diciamo, questo, diciamo, è un complimento perché, insomma, poi quando si arriva a una certa età i libri che sono illeggibili, non si finiscono, no? Mentre invece questo è un libro che si legge, insomma, velocemente. E dunque, appunto, un romanzo storico che racconta storie di vita, quindi è un vero romanzo. Io ho visto che soprattutto si dà l'accento, quando è stato presentato in altri luoghi, si tende anche, oggi c'è anche sull'Alto Adige, eccetera, a mettere in rilievo quella che è la parte che colpisce un po' di più, e cioè il fatto che, diciamo, di queste due storie intrecciate si intersecano e hanno alle loro spalle, intorno, e, diciamo, vengono anche condizionate poi le esistenze individuali da quelli che sono i fatti della nostra storia contemporanea in Italia. Storia recente, una storia che ha anche dei tratti oscuri, dei bruschi scartamenti, in cui ci sono dei cambiamenti che non sono così chiari, che non vengono compresi, sempre dicendo che forse anche non è così semplice poi che venga tutto, però trattandosi in Italia del dopoguerra, in cui diciamo, c'è almeno formalmente una democrazia, bisogna dire che, appunto, il racconto che ne viene fuori con gli episodi anche appunto di quei tempi, eccetera, fanno una certa impressione vederli così tutti allineati uno vicino all'altro, no? Allora, la prima storia è la storia di un giovane, possiamo dire un giovane povero, nel senso che povero come si era poveri in tanti, non misero magari come oggi, che attraverso, diciamo, lo studio, l'allontanarsi dal proprio piccolo paese, acquisisce una professione, fa il giornalista per non allontanarsi troppo dall'esperienza diretta dei due giovani, anzi volevo dire giovanissimi secondo il concetto italiano contemporaneo, sì, attuale, sì. No? Mentre la volatura, se li abbassano, sì, esatto, sono sempre più giovani, perché rimarremo sempre giovani, ecco, forse speriamo, ma insomma. E praticamente entra in contatto, e la sua vita viene anche condizionata con un po' da tutti quegli avvenimenti, dalla rivolta giovanile del 68 e degli anni dopo, i giorni del terrorismo che seguono, con questa atmosfera cupa e pesante di quegli anni in cui anche governava quello che noi chiamavamo il CAF, no? Craxi, Andreotti, Fanfani, cioè un periodo in cui era più il non detto nella vita pubblica che non quello che si riusciva a vedere, a capire, eccetera. E poi Tangentopoli, con la caduta degli dei minori, possiamo dire, e la speranza che il processo di rinnovamento civile, che si era impantanato subito nel dopoguerra e che era avuto un momento di diciamo di ripresa con le grandi riforme degli anni 70, e riprendesse, insomma, che questo processo riprendesse. E il tempo, ecco, forse vi dico ancora qual è l'altra storia che si ricongiunge a questa negli anni 90, racconta la storia di un gruppo di ragazzi che vivono a Gazzolino, un paese dal nome molto probabile ma non inventato, infatti ho guardato e controllato, conosco un po', Gazzolino che non esiste, sono un gruppo di ragazzi che, diciamo, riescono ad avere si può dire oggi, si potrebbe chiamare un centro sociale, un centro giovanile, e in cui fanno il loro apprendistato, diciamo, di socializzazione anche alla politica, eccetera, un po' visto male, visto con una certa antipatia da parte delle persone del paese. E io dentro questo, no, forse posso, ecco, diciamo che l'intreccio tra questi due avviene negli anni 90, di cui parlo fra un momento, perché ritorniamo sulla storia, diciamo, grande. E vorrei dire qualcosa che ho visto in questo gruppo, mi è piaciuto molto, devo dire, perché le prime 100 pagine si parla di quella storia, forse anche un po' in cui io anche ho conosciuto più da vicino, più vissuto, eccetera, che però è raccontata quasi come un thriller. Poi questa storia del gruppo è un po' più intima, nel senso che ci sono queste lunghe conversazioni fra i ragazzi, eccetera, e mi è piaciuta tanto perché io ci ho visto la tendenza a coltivare le amicizie, a rimanere nel piccolo posto, a tentare di non perdersi di vista, che è tipico delle generazioni che successive a quelle che hanno invece investito tanto nello spazio pubblico, anche nella partecipazione politica, pur diciamo anche questi ragazzi essendo molto sensibili agli accadimenti di quegli anni. E mi ha colpito anche il senso di fragilità di cui si parla in maniera teorica, ma lì viene fuori dalle conversazioni, proprio dai piccoli gesti e dai comportamenti, appunto di una generazione che è nata in una società liquida, che quelli della mia generazione studiano o hanno teorizzato, e che però non hanno vissuto fino in fondo, perché in fondo No, perché in fondo, perché insomma le persone diciamo un po' più anziane, insomma, come dire, insomma, hanno comunque dei punti di riferimento molto più forti, anche quelli contro cui hanno combattuto, no? Quindi insomma. Allora queste, diciamo, queste due cose anche lontane, no? Una che si svolge nel centro Italia, che però ha anche una fase, perché questo giornalista va anche a Milano e vive un momento nella Milano, un po' di anni nella Milano da bere del craxismo, eccetera, e poi invece ci sono questi ragazzi molto isolati, Gazzolino, eccetera, e diciamo l'incontro avviene negli anni 90, nel momento in cui il terrorismo mafioso favorisce l'avvento, la distruzione di un ordine che sta già avvenendo con Tangentopoli, ma soprattutto l'avvento di un nuovo ordine che peraltro sembra, come si usava dire una volta, più fondato sul disordine. E qui devo dire, anche se poi è appunto una delle cose che vengono più rilevate, c'è veramente una grande capacità di rappresentare delle cose che appunto, come diceva Cercas, no? Non si sa se sono storia, non ci sono proprio tutti i documenti, però sono veramente molto credibili e sono certamente una parte della storia, almeno quella che sappiamo fino adesso. Questo diciamo, bisogna dirlo, e diciamo, questa ambientazione non è romanzata, è un'ambientazione che fa agio, si posa su una vera documentazione, almeno quella esistente, e su quello che si dice, quello che si sa fino adesso. Ecco, questo diciamo, è il momento della conoscenza della storia, con alcune cose sorprendenti, come questa figura di questo signor G.P. Graziano, che è inquietante e che però somiglia straordinariamente, e il romanzo è stato scritto prima, a questo signor Franco, che sembra aver avuto un ruolo molto importante nelle stragi di mafia e nelle relazioni tra appunto le stragi di mafia e la disponibilità di uno Stato in gravi condizioni di salute, disposto a, diciamo, a patteggiare o a venire a patti con la mafia. Quindi insomma, qui ecco, forse anche qua adesso io non voglio dilungarmi tanto, perché poi penso che ci saranno anche da parte del pubblico, se ci sono tante domande mi sembra più interessante sentire le cose. E diciamo, tornando a questo, tornando proprio al direi che anche è un romanzo, un po' anche un tentativo, un po' di romanzo di formazione, oppure forse il seguito potrebbe essere il romanzo di formazione, perché c'è anche un po' questo episodio che poi il giornalista è ritiratosi a vivere nel piccolo posto, quindi alla fine ritorna anche lui alla sua Gazzolino, che ha anche un po' gli stessi problemi di relazione fra generazioni e fra visioni del mondo che ha Gazzolino, quindi sono temi che ritornano e sono sviluppati in maniera molto anche delicata, qualche volta commovente, molto interessante, pongono anche questioni come la relazione fra il lavoro insomma intellettuale, il lavoro manuale, la relazione con la terra, eccetera, no? Anche se magari non è sviluppato fino in fondo, e lì appunto ci sono dei giovani del paese vicino che chiedono a questo giornalista ritirato, deluso, e come dice lui, è un po' insomma che ha rinunciato alla sua diciamo a fare le sue inchieste, eccetera, e gli chiedono di aiutarli a imparare il mestiere insomma di un giornalismo che insomma anche oggi nella nostra realtà è poco praticato, e quindi un giornalismo che cerca di raccontare diciamo, la verità, o almeno quello che è possibile dire della verità. Quindi forse questo poi è il prossimo romanzo. Ecco, niente, ancora così, mi ha fatto venire in mente tantissime domande, devo dire anche, no? Così adesso ne faccio due, tre, poi magari ne facciamo ancora qualcun'altra quando, dopo, se... mi sono un po' meravigliata che nella parte finale del libro ci sia questo ritorno che per tutto il resto del libro non c'è, questo mi faceva piacere, al noir, che è un po' la caratteristica così anche un po' ossessiva di tutta la letteratura, anche legata al territorio, di tutta la letteratura degli ultimi anni o dell'ultimo decennio, che sembra proprio inevitabile lì, insomma, un po' anche se però l'avete un po' ridotta così, ben cruenta, però un po' rapida. E poi volevo dire qualcosa sulla scrittura, che magari voi potete ancora, se c'è interesse, dire, che diciamo, mi ha colpito ovviamente il linguaggio, che io definirei sboccato, insomma, perché ci sono questi intercalari che si usano adesso, mi sembra volutamente più povero rispetto a quello dell'anziano Castellani, proprio perché è così, no? Nella realtà è così che diciamo, ci sia un linguaggio così semplificato, e però questi ragazzi riescono in questo modo a farci entrare in un mondo che non si trova spesso nello spazio pubblico, e anche perché ha un tipo proprio di racconto diverso, no? Anche questo, la storia di Castellani, che è il giornalista che vive nel 68, poi fa tutte le grandi inchieste sulla mafia e Tangentopoli, eccetera, e invece quest'altro racconto, che somiglia un po' ai primi film di Wim Wenders, no? In cui racconta quello che passa fra un avvenimento e l'altro, cioè quello è la vita, quella che capita nel corso del tempo tra un avvenimento e l'altro, e quella è la cosa essenziale, no? Quindi questo anche ecco, non voglio dilungarmi tanto, no, ho chiacchierato con Mattia al telefono un po' ieri sera, e allora volevo fare un accenno e dire che effettivamente le donne sono molto meno ben definite, hanno un ruolo secondario, anche se ci sono, e raccontano una realtà femminile che è piuttosto subordinata o secondaria rispetto ai destini dei maschi in questo, poi voi potete contestare, no? E cioè, da un lato, poi parlando ho riflettuto, ho detto forse corrisponde alla realtà, nel senso che il femminismo dal 68 in poi ha cambiato profondamente le donne, sicuramente, perché insomma negli anni 70, se c'è una rivoluzione che c'è stata, è stata insomma quella, a parte quelle delle grandi leggi istituzionali. Però appunto il resto della società, gli uomini in Italia sono rimasti indietro, poi adesso abbiamo fatto una specie di salto indietro pauroso ultimamente, anche in questi giorni con gli avvenimenti che siamo costretti a ascoltare e a sentire, ecco. Ecco, no, niente, volevo solo ancora finire con questa cosa, cioè alla fine mi è sembrato un po' che la fine, in qualche modo, diciamo, di chiusura, di delusione, in cui quasi quasi insomma si capisce che quello che anche quello che è avvenuto al G8 a Genova in fondo poi anche distrugga quest'ultimo tentativo di questo gruppo di giovani o quasi giovani di fare qualcosa, e un po' contraddice il resto del libro, perché nel libro c'è una grande, secondo me, passione civile, che è quella dei due autori sicuramente, e poi alla fine è come se insomma se vincesse la delusione. Almeno a me è sembrato così, no? Con questa fine, se le cose drammatiche, adesso non vi racconto tutti perché chi non l'ha letto poi magari non vuole che si sveli tutto, però invece io penso che appunto anche diciamo i giovani che chiedono di essere aiutati a fare il giornale, ma poi anche nella nostra realtà, nella nostra conoscenza, quello che sappiamo, ci sono tanti giovani, oltre anche nelle regioni, che continuano a tenere, a rinfrescare questo striscione che viene attaccato nei momenti drammatici che ci sono in Italia in questi momenti, quando ci sono la strage all'Accademia dei Georgofili a Firenze, e l'assassinio dei giudici antimafia, eccetera, e questo striscione Resistenza che poi sbiadisce. Ecco, io penso che ancora ci sia qualcuno che la ridipinge di tanto in tanto. Allora, questa è anche una domanda, ovviamente. E così. Ecco, io mi fermerei qui, grazie, ma allora darei la parola a voi per chiedere dirette cose più interessanti, anche che non hanno a che fare con quello che dico io. Questa era la mia lettura personale. Ma innanzitutto buonasera e ringrazio Alessandro Zendron per aver introdotto con degli stimoli assolutamente interessanti il nostro romanzo. Sembra un romanzo importante come l'hai descritto, e quindi noi siamo assolutamente orgogliosi. Ringrazio anche la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta per averci ospitato e quindi averci dato la possibilità di presentare qua il nostro testo. Partirei con una breve riflessione, poi essendo in due... piace proprio per questo lavoro collettivo che ci sia un'interazione col pubblico e quindi ci siano delle domande stimolo da parte vostra, qualsiasi tipo di domande, siamo veramente disponibili a raccontare, a raccontarci a seconda delle vostre richieste. Come piccola riflessione iniziale partirei da quello striscione Resistenza che i ragazzi del paese trentino inventato ma reale, non si chiama Gazzorino ma potrebbe assumere qualsiasi altro nome di un paese del nord-est quantomeno, e affiggono fuori dal loro centro sociale, dal loro piccolo centro sociale nei momenti di grande tensione, come appunto le stragi, l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino o le stragi del 93. Ecco, quello striscione sbiadisce fino ad arrivare al 2001, quando non si sa ma verrà sicuramente macchiato di sangue. E perché questo? Perché il romanzo ha un tenta di comunicare anche in maniera simbolica fondamentalmente un fallimento, che è un fallimento non per necessità definitivo, però un fallimento dell'idea. È l'idea che quantomeno in Italia, ma non solo, si possano cambiare determinate cose, che possa essere messo in discussione il cosiddetto potere, che non è nulla di metafisico, ma è la gestione privata dei pubblici interessi, oppure l'essere sempre al posto giusto nel momento giusto, il privilegio. Dunque il fallimento dell'idea che ha cercato di contrastare il potere si manifesta a nostro avviso in tre momenti storici in Italia che abbiamo voluto descrivere: il 68 e gli anni 70 come primo momento, gli anni del 90, il biennio 92-93 che occupa la stragrande maggioranza delle pagine del romanzo, e un periodo molto limitato che si limita al prologo e all'epilogo del nostro romanzo, che sono i giorni di metà luglio del 2001, quando a Genova appunto si svolse la riunione dei capi di Stato degli 8 paesi più industrializzati e parallelamente la grande contestazione del movimento che ebbe la fine che penso tutti possiate ricordare, la fine tragica che tutti possiate ricordare. Ecco, perché questi tre momenti? Perché in tutti questi tre momenti, con protagonisti diversi, anche con atteggiamenti diversi, però si è respirata un'aria di cambiamento, cioè i giovani del 68, i giovani dei primi anni 90 e i giovani del 2001 hanno percepito la possibilità di cambiare quello che effettivamente non funzionava. E tutti e tre, per ragioni, ripeto, diverse, tutti e tre questi momenti hanno portato ad un fallimento e quindi a una delusione anche dei protagonisti. E Antonio Castellani, che ha vissuto da giovane 68 e che poi si trova da adulto a indagare sul malaffare dei primi anni 90, ne è un emblema. Il gruppo, che è un personaggio collettivo, questo gruppo di ragazzi che vivono da giovani i primi anni 90 e poi da adulti rivivono il G8, la manifestazione al G8 di Genova, sono un altro emblema. Ecco, io e Marco abbiamo voluto chiamare queste persone che hanno voluto sfidare il potere e che sono passati purtroppo attraverso la delusione e il fallimento, abbiamo voluto chiamarli con una categoria anti-eroi. E siamo molto affezionati a questa categoria, primo perché anch'io e Marco nel nostro piccolo ci sentiamo degli anti-eroi, e poi perché rappresenta anche una generazione alla quale apparteniamo, la generazione nata alla fine degli anni 70, quindi che ha poco più di 30 anni adesso, e che chiamiamo anche generazione triste, cioè una generazione che si trova a dover vivere in anni in cui è molto difficile riuscire a non soltanto entrare negli ingranaggi del potere, ma metterlo in discussione senza venire travolti. Ecco, gli anti-eroi Antonio Castellani e gruppo, a livello simbolico, non solo vivono quei tre momenti, ma poi abbiamo voluto riassumerli nello pseudonimo che ci siamo dati, ovvero Tersite Rossi, poiché Tersite è il nome di un personaggio omerico che si trova nell'Iliade ed è il simbolo storico letterario dell'antieroe, cioè di colui che va contro il sistema, di colui che dal basso va contro il sistema, ma che non solo viene sconfitto, e questo ci starebbe anche, insomma, chi va contro venga sconfitto ci può stare, ma che viene addirittura, nel caso specifico, bastonato e deriso dai suoi stessi compagni e poi dimenticato. Ecco, l'idea che chi in nome di una giustizia sia stato non solo sconfitto, ma abbia pagato sulla propria persona le conseguenze della sua battaglia e che poi sia stato letteralmente dimenticato, ecco, questa immagine, molto triste se vogliamo, malinconica, a noi piaceva molto e abbiamo voluto in qualche modo distribuirla un po' per tutto il romanzo. E l'immagine dello striscione con scritto Resistenza che va via via scolorendo è assolutamente conseguente alla figura dell'antieroe. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, sono Marco. E diciamo, tra i tanti spunti che Alessandra ha fornito nella sua presentazione, mi ha colpito di più il riferimento al noir come genere, diciamo, che il nostro romanzo ha provato in qualche modo a praticare. In realtà noi abbiamo cercato di costruire un romanzo che fosse particolarmente denso, ecco, questa è sicuramente una caratteristica che gli appartiene, denso sia per quanto riguarda i generi, infatti il noir, se vogliamo, è una delle tracce di genere che passano all'interno del romanzo, poi il romanzo può essere considerato anche romanzo di formazione, come dicevi tu Alessandra, può essere in qualche modo considerato anche in un certo senso romanzo d'avventura, insomma un insieme di generi, un insieme di personaggi, abbiamo voluto costruire le nostre vicende e centrandole su più esistenze, non soltanto su poche, e abbiamo cercato anche di, appunto, inserire anche un numero notevole appunto di vicende e di trame e sottotrame. E come mai abbiamo deciso di svolgere una azione narrativa di questo genere? Essenzialmente perché noi volevamo che l'essere romanzo di questo prodotto trasparisse in maniera molto forte e chiara al lettore, contrariamente a quello che a un primo acchito potrebbe sembrare nel momento in cui passi l'idea che questo sia, e infatti non l'ho citato casualmente, soprattutto romanzo storico, cioè che questo sia soprattutto un romanzo centrato su fatti realmente accaduti. È effettivamente così. Noi abbiamo fatto un'attività di documentazione anche notevole prima di scriverlo, che ha riguardato, diciamo, appunto i fatti che principalmente hanno ispirato la narrazione, non soltanto quelli del biennio 92-93, quindi Tangentopoli e le bombe di quegli anni, ma anche, per esempio, come si diceva, il 68, anche per esempio l'operazione Gladio, anche il G8 di Genova. Questo è senz'altro accaduto, però a noi interessava, altrimenti avremmo scritto qualcos'altro, non un romanzo, che il nostro obiettivo di recuperare alla memoria fatti che sono caduti anche sorprendentemente nell'oblio, potesse essere raggiunto prima di tutto da noi e poi dai nostri lettori, facendosi raccontare una storia, facendosi raccontare più storie, entrando nelle esistenze di più personaggi e riuscendo a immedesimarsi nelle esistenze di più personaggi. Questo perché? Perché noi siamo partiti un po' così dalla situazione che riguardava anche noi stessi rispetto ai fatti che hanno ispirato la narrazione, in particolare alle bombe del 92-93, e ci siamo resi conto che effettivamente il ricordo di episodi accaduti un quarto d'ora fa, in sostanza nel tempo storico, perché parliamo di 17-18 anni fa, insomma, neanche 20, episodi di questo tipo, peraltro così influenzanti, perché ancora oggi la realtà in cui siamo immersi deriva direttamente da quello che è accaduto in quel biennio, quindi così influenzati non soltanto la politica ma anche la società e anche la cultura italiana, ci siamo chiesti come mai fatti di questo genere effettivamente siano stati nel corso di questi anni dimenticati. Noi abbiamo deciso di scrivere il romanzo, era l'estate del 2007, quindi ormai 3 anni fa, e a differenza di quello che è accaduto in particolare l'anno scorso nel 2010, su fatti come le bombe del 93, in particolare la bomba di Firenze, la bomba di Milano, le bombe di Roma, era caduto davvero un velo e erano fatti caduti totalmente nell'oblio. Ci siamo chiesti un po' la ragione di questo. La cosa peraltro riguardava anche noi. Io e Mattia siamo del 78, quindi abbiamo più di 30 anni, all'epoca ne avevamo 14-15. È un'età in cui certo non riesci ad avere completamente sott'occhio il quadro storico-politico, però hai sicuramente gli strumenti per riuscire innanzitutto a cogliere cosa accade nel reale di particolarmente importante e a dargli un peso. Ebbene, anche per quanto riguardava noi, il ricordo in particolare di quello che è il fatto simbolo, che ritorna anche nel titolo del romanzo, poi vi spiegheremo perché, cioè della bomba di Firenze in via dei Georgofili, era un ricordo sbiadito. Abbiamo peraltro provato a verificare che diciamo questa situazione non riguardasse soltanto noi, ma riguardasse anche diciamo altri settori del cosiddetto pubblico, della cosiddetta gente comune. Abbiamo effettuato una serie di interviste, circa una quarantina di interviste, a persone di tutte le età, uomini e donne, varie estrazioni culturali, e quello che è emerso è che effettivamente, nella migliore delle ipotesi, c'è un ricordo vago e frammentato, ma rispetto ai fatti che vi ho nominato prima, normalmente ciò a cui ci siamo ritrovati di fronte è appunto una dimenticanza pressoché totale, o addirittura, che è ben peggio, una memoria distorta. Per esempio, qualcuno ci ha attribuito le bombe del 93 agli anarchico-insurrezionalisti. E questo è un tipo di collegamento che diciamo da Piazza Fontana in avanti si è realizzato più volte, e sarebbe interessante andare a indagare i meccanismi psicosociali con cui si vanno a creare collegamenti talmente distorti che appunto distorcono in tale maniera la storia. Ci siamo quindi resi conto che la situazione riguardava un'ampia fetta del pubblico e appunto, come vi dicevo, ci siamo chieste le ragioni. E qui mi riallaccio al discorso di un romanzo che vuole essere densamente romanzo. Abbiamo identificato, diciamo, questa defiance, le cause di questa defiance, soprattutto nel modo in cui sono state svolte in questi anni le due professioni che io e Mattia pratichiamo e amiamo, cioè quella di insegnante e quella di giornalista, l'insegnamento e il giornalismo. Cioè, ritroviamo nel modo in cui vengono svolte oggi queste due professioni, o comunque nel modo in cui chi cerca di svolgere queste professioni anche con onestà è messo nelle condizioni di svolgere, la ragione per cui effettivamente la memoria collettiva fa cilecca e sta facendo cilecca. Abbiamo una deriva che è parallela ad entrambi gli ambiti. Abbiamo una deriva che sostanzialmente porta dalla qualità, cioè dall'approfondimento, dalla cultura alla quantità. Quindi sovrainformazione, quindi più che cultura, istruzione, per non dire istruzioni, cioè avere semplicemente la conoscenza di ciò che poi mi servirà fuori dal mondo della scuola, dopo il mondo della scuola, a diventare parte dell'ingranaggio, a diventare un ingranaggio del sistema. È una deriva parallela, una deriva per cui ad esempio un massmediologo americano, Neil Postman, definisce oggi quella del pubblico una triste condizione, la condizione di chi si trova ad avere notizia di tutto senza conoscere niente. È effettivamente così, anche per i fatti di cui abbiamo parlato e che sono diventati scenario della nostra narrazione. Chi il giorno dopo la bomba esplosa a Firenze il 27 maggio 93 non ha letto sulle prime pagine dei giornali di questo fatto? Chi non lo ha ascoltato per radio o visto al telegiornale? Una netta minoranza di noi. Chi oggi ricorda precisamente le dinamiche che sono state dietro questo attentato? Un'altra netta minoranza. Questo accade proprio perché la sovrainformazione e la mancata trasmissione di conoscenza da parte di chi dovrebbe farlo impediscono alla memoria di stratificarsi. Cioè sostanzialmente siamo ridotti a vivere una sorta di eterno presente in cui quello che è accaduto un mese fa è già diventato oblio. Allora siamo arrivati a ipotizzare che probabilmente molto più che attraverso un saggio o attraverso l'insegnamento, forse potesse essere una nuova modalità, un linguaggio diverso, una nuova forma a permettere di tornare ad acquisire alla memoria quei fatti e magari di stimolare qualche domanda: perché sono accaduti, chi c'è stato dietro. E così abbiamo deciso di scrivere un romanzo. Io normalmente cito un esempio e poi termino la riflessione e invito magari voi stessi a porci domande in merito o anche rispetto ad altre questioni. Normalmente cito un esempio per far capire in che modo il romanzo può essere forte. Mi è capitato di leggere lo scorso anno un libro dei Wu Ming, Altai. I Wu Ming sono un altro autore collettivo che da una decina d'anni produce romanzi che si definiscono storici, poi anche loro in realtà hanno più caratteristiche e più genere al loro interno. Noi ci siamo anche ispirati a loro, che consideriamo dei maestri anche nello stile, se volete, nella struttura e anche nelle dimensioni. Ebbene, Altai è un romanzo ambientato nel 500, in particolare a ridosso di un fatto storico della storia moderna fondamentale, cruciale, la battaglia di Lepanto, avvenuta nel 1571. Ebbene, per me, studente che comunque non me la cavavo malaccio, la battaglia di Lepanto si limitava appunto a un luogo e a una data. Anzi, sinceramente, se mi avessero fatto una domanda a bruciapelo avrei potuto avere anche qualche problema sulla data. Non parliamo appunto del ricordo che avevo di questo accadimento rispetto alle conseguenze che aveva avuto, oltre che alle dinamiche che lo avevano prodotto. Era un ricordo totalmente sbiadito. E perché questo? Sicuramente non perché a scuola non l'abbia fatto, anzi probabilmente mi ci sarò imbattuto più volte in questo accadimento nel corso dei miei studi. L'avevo però rimosso proprio perché mi era mancato acquisire quello che si chiama spirito del tempo, cioè entrare dentro l'atmosfera di quei mesi e capire effettivamente quali sono state le dinamiche anche di tipo esistenziale, anche legate alle vicende di determinati personaggi. Infatti vengono poi individuati personaggi storicamente esistiti e colti nella loro dimensione anche privata. E in questo modo per me oggi la battaglia di Lepanto non è più appunto un'istruzione, Lepanto 1571, ma è diventato un bagaglio, un elemento del mio bagaglio culturale. Questo è accaduto, credo, proprio perché ho avuto la possibilità di leggere un romanzo. Lo stesso sicuramente non era accaduto leggendo un manuale di storia e ascoltando una lezione di storia. Grazie. Io darei grazie intanto ai nostri autori che ci hanno anche aggiunto delle cose molto interessanti, e adesso darei la parola a voi, o sia a chi non ha letto il libro sia magari a chi l'ha letto, che vuole dire qualcosa o chiedere qualcosa. Ecco, c'è sempre bisogno della figura che si immola per tutti, poi a ruota. Grazie. No, volevo fare una domanda ad una brevissima premessa, che adesso abbiamo esplorato vari aspetti del libro, come è nato. Volevo anche dire che, perché magari uno si concentra su questi aspetti e non vede l'aspetto di divertimento della lettura del libro, l'ho finito ieri, me l'hanno regalato, cioè vale assolutamente la pena leggerlo, secondo me. Io ho fatto fatica per altre faccende a doverlo mollare lì, perché viene voglia di arrivare in fondo, insomma, non è, si legge, è molto godibile. Piccola premessa finita. Poi volevo chiedere, avendolo scritto a più mani, se ci sono delle parti di cui si è occupato principalmente uno di voi, o se invece tutto il libro è frutto di un misto, diciamo, se qualcuno ha curato più magari la parte iniziale di Castellani, o se come è andata, insomma. A te la poesia. Sì, dunque questa domanda, quella relativa, diciamo, al modo in cui l'abbiamo scritto, ha due versioni. Una è quella più poetica, diciamo, quella buona, e una è quella invece più prosaica, cattiva, e quella cattiva normalmente la racconta Mattia, quindi io parto da quella buona. Quella buona vuole che nel nostro caso aver scritto in due abbia portato a vantaggi talmente grossi che possiamo dire che se non l'avessimo scritto in due non sarebbe stato mai scritto. È un caso in cui effettivamente uno più uno ha fatto qualcosa un po' più di due. Questo è accaduto innanzitutto per le motivazioni iniziali di scrittura. Cioè l'idea è nella fattispecie di Mattia, che un giorno dell'estate 2007, anziché andare al lago in montagna, visto che il Trentino, come l'Alto Adige, è particolarmente dotato di bellezze naturali, decise invece di farmi questa proposta che io giudicai indecente, cioè di scrivere un romanzo insieme. La giudicai talmente indecente da non aver risposto alla prima mail in cui mi formulò la proposta, salvo poi da parte sua ritornare qualche giorno dopo, questa volta verbalmente, e a quel punto diciamo ho accettato, ho pensato che era una proposta talmente folle che non si poteva rifiutare, proviamoci. Quindi io probabilmente non mi sarei mai dato a un'impresa del genere. Mattia mi ha confessato questo elemento davvero impressionante di averlo nel cassetto, almeno la vicenda che poi ha principalmente curato lui, da una quindicina d'anni. Infatti, i vostri calcoli, la cosa è paranormale, qualcuno l'ha definita anche paranoica. E in ogni modo, appunto, tutta questa serie di cose non comuni ci ha portato a decidere di scriverlo in due. Dopodiché, in realtà, la scrittura collettiva sostanzialmente in senso proprio non esiste, perché appunto crediamo che anche nel caso degli altri collettivi di scrittori sia così. Il momento poi di scrivere è un atto individuale, ovviamente, però quello che diciamo è collettivo e quindi aggiunge valore è ciò che accade prima e ciò che accade dopo. Prima io e Mattia abbiamo davvero insieme costruito prima il soggetto e poi la struttura narrativa, al punto che eravamo arrivati a dimagrire con le borse sotto gli occhi, perché normalmente, diciamo sempre, questo romanzo è figlio della fame e dell'insonnia, perché ci trovavamo nelle pause pranzo e le sacrificavamo, il furore letterario ci portava a questo, oppure appunto lavoravamo sostanzialmente di notte. E dopodiché, una volta creato l'impianto, ciascuno di noi ha curato, qui rispondo alla domanda precisa, ha curato in particolare una delle due parti. Però una delle osservazioni più belle che ci è stata data la possibilità di ricevere in questi mesi dall'uscita, fin dal nostro editor, cioè la persona che all'interno della casa editrice appunto ha maneggiato il testo prima della pubblicazione, è che si fa fatica a distinguere quali parti sono scritte da una mano e quali dall'altra. E questo ovviamente meno male, perché altrimenti sarebbe un disastro per qualunque collettivo di scrittori che si notasse qui la mano dell'uno e qui la mano dell'altro in modo troppo palese. Questo è accaduto perché appunto al termine della scrittura di ogni capitolo, il romanzo è fatto di numerosi capitoli ma molto brevi, è stato un modo che abbiamo trovato di facilitare a noi la scrittura e al lettore, pensiamo la lettura, ciascuno di questi brevi capitoli veniva inviato, ripeto, normalmente di notte, ore piccole, all'altro, che di solito, tra l'altro, in tempo reale, come se aspettasse quello che chiamavamo in effetti il regalino, scusate se entriamo in questi particolari dettagli intimi, è una storia d'amore, sì, adesso. ne arrivava appunto il regalino e l'altro cosa faceva? Faceva sopra questo capitolo attività di redazione vera e propria, quindi lo prendeva in carico, lo leggeva e poi revisionava, commentava e via dicendo. La cosa peraltro avveniva più volte, in maniera tale che effettivamente alla fine il capitolo non era più né di Mattia né di Marco, era di Tersita Rossi, e la stessa cosa poi messo insieme è valsa per il libro. Come vi dicevo, questa è la versione prosaica, la versione poetica, la versione prosaica la racconta Mattia. Giustamente il demone dei due deve tirare fuori l'anima più brutale. Ah sì, infatti lui ha raccontato come come sia nata una coppia d'amore artistico, però io vi racconto il lato insomma più crudo, come in qualsiasi altra coppia la convivenza diventa difficile, soprattutto se Tersita Rossi è dotato di una doppia anima, e la doppia anima di Tersita Rossi è quella che lo porta ad essere particolarmente pignolo da un lato e particolarmente permaloso dall'altro. Allora, per farvi capire come la convivenza sia stata difficile, come il parto, benché insomma sia stato scritto in pochi mesi, perché nel giro di 6 mesi era già belle che pronto e anche più corposo, visto che c'erano più di 120 pagine oltre a quelle, nonostante la scrittura sia stata anche veloce, però i rapporti sono stati un po' conflittuali, come in qualsiasi coppia del resto, acuiti dal fatto che c'era l'anima permalosa e l'anima pignola. Vi racconto un evento, tanto per semplificare: eravamo a circa 3/4 della bozza iniziale, quindi ben avanti, le vicende di Castellani del gruppo erano già ben avviate, anzi stavano andando verso quel finale esplosivo di cui parlava prima Alessandra, da Noir, quando l'anima permalosa scrisse un capitolo che giudicava, solitamente si dice, la scena perfetta, era perfetto, lo inviò appunto all'anima pignola, la quale non lo reputò probabilmente tale, tanto che rispose con una email, visto che il lavoro avveniva sempre via internet, non con il capitolo corretto, sistemato, ma con 3 parole: è un disastro. Allora voi potete immaginare come di fronte a questo commento l'anima permalosa, che non sarebbe permalosa se effettivamente non avesse un atteggiamento di questo genere, abbia reagito. Convoca per l'indomani l'anima pignola in un centrale bar di Trento per sacrificare l'ennesima pausa pranzo per dire vabbè, chiariamo la cosa. È da notare che quando l'anima permalosa è anche la più puntuale delle due, era già nel bar, quando l'anima pignola, che è pignola però in ritardo, spesso è in ritardo, arrivò sorridendo dentro il bar, venne accolto con altre 3 parole che per correttezza non sto a ripetere perché fanno parte di quel turpiloquio di cui si parlava prima, era un andare da qualche parte, e con questo bel saluto insomma è cominciato il lavoro di confronto. L'anima permalosa era pronta a dire vabbè, tanto io ho il mio lavoro, tu hai il tuo lavoro, nessuno ci obbliga a diventare scrittori, grazie, arrivederci, ci vediamo tra qualche mese quando mi è passata. Solo che non servono tanti mesi per fargliela passare. Grazie anche al lavoro di Cesello, il lavoro di diplomazia dell'anima pignola, fatto sta che al termine di quella discussione, nonostante qualche offesa e qualche parola proprio non correttissima, e il lavoro è continuato, il libro è giunto insomma al termine. Di quel capitolo ovviamente non troverete mai traccia, perché è sparito. Ce l'avete tenuto però, future generazioni. E cosa c'era scritto in questo capitolo? Io non ho letto il libro, no? Parlando con... ho chiesto un po' di che cosa si trattava. E siccome, diciamo così, sto approfondendo l'argomento mafia, no? Allora mi sono riagganciato al discorso del papello, che mi pare voi avete, ecco la domanda, l'avete anticipato voi, è stata una vostra intuizione, o già al momento in cui voi avete inserito nel libro questa tipologia c'era qualcosa già di noto o meno noto? Mm-hmm. Sia stata una vostra, sia, mi pare di capire che attentati a Roma, eccetera, eccetera. Voi vi siete chiesti, ma qual è la ragione, ossia che cosa la mafia si aspetta da questi episodi delittuosi? Sì, allora, diciamo che noi personalmente l'unico merito che abbiamo, se è un merito, è quello di esserci fatti effettivamente delle domande rispetto a questi episodi. Ma non abbiamo in alcun modo, diciamo, scoperto nulla, nel senso che per quanto riguarda il Papello in particolare, che per chi non lo sapesse conteneva le richieste che Totò Riina faceva allo Stato rispetto in particolare al cosiddetto carcere duro, il 41 bis, per trattare appunto con gli apparati dello Stato e venire quindi a patti con lo Stato stesso, sia per quanto riguarda il Papello sia per quanto riguarda gli altri aspetti che entrano all'interno di questo romanzo, alcuni dei quali, se volete, posso anche indicarvi, perché ancora oggi sconvolgono. Già esisteva non soltanto una pubblicistica, per quanto, diciamo, ovviamente non basta, ma soprattutto esistevano sentenze dello Stato, in particolare il riferimento per quanto riguarda la pubblicistica è a un testo intitolato La Trattativa, scritto da Maurizio Torrealta, un valido giornalista RAI, che era stato pubblicato, era stato pubblicato nel 2003 dagli Editori Riuniti, e ci è servito, è stato estremamente prezioso per ricavare sostanzialmente tutte le informazioni che abbiamo appunto oggi a disposizione, anche perché peraltro il testo è stato, proprio per i recenti sviluppi, rieditato con aggiornamento nel 2010 dalla Burr. Abbiamo trovato tutto quello che appunto effettivamente era a disposizione, era dato conoscere rispetto a queste dinamiche. In particolare esistono sentenze nell'ambito delle quali si fa menzione di due aspetti che, come vi dicevo poco fa, ci hanno decisamente sconvolto. Il primo è il fatto che nel diciamo fine 91, inizio 92, con il progressivo crollo del vecchio sistema, appunto del CAF, come si diceva prima, e dei partiti che avevano dominato la scena fino a quel momento, aveva portato Cosa Nostra a trovarsi senza referenti politici, quelli che aveva avuto fino a quel momento, e a cercarne altri, e che questi altri siano stati trovati nel nascente partito di Forza Italia, dopo peraltro che la mafia aveva provato un'altra strada. Questo aspetto è decisamente poco noto ancora oggi, che è quella che in gergo si chiamava la strada del progetto, che prevedeva la suddivisione dell'Italia in tre parti, la terza delle quali, cioè l'Italia meridionale, sarebbe stata lasciata all'amministrazione mafiosa, cioè sostanzialmente si sarebbe istituzionalizzato l'amministrazione mafiosa. Questa era un'idea che frullava nella testa del teorico della Lega Nord Gianfranco Miglio in quegli anni. E anche della Fondazione Agnelli, c'è uno studio in cui viene teorizzata la divisione in tre parti, non c'entrerà, però certo, sì. E in particolare lo stesso Miglio, intervistato, la cosa è pubblica, dichiarò che secondo lui, per una questione di tipo antropologico, l'Italia meridionale non sarebbe stato un male che l'Italia meridionale accettasse di diventare uno Stato amministrato in maniera, diciamo, ufficialmente e istituzionalmente mafiosa. Il secondo aspetto che abbiamo ricavato dalla nostra attività di documentazione, che è finito dentro al romanzo con un espediente che vi racconto adesso in poche parole, è che nel 92-93 abbia avuto luogo di nuovo quella che diciamo, in Italia ha purtroppo funestato le vicende storiche e che è nota come strategia della tensione. Qualcuno l'ha chiamata infatti nuova strategia della tensione. Ebbe luogo nel 92-93 e vide ancora una volta i servizi segreti impegnati o comunque apparati dello Stato impegnati da una parte a svolgere il loro mestiere, in particolare garantire quindi legalità e sicurezza, e dall'altra impegnati a favorire diciamo così progetti più o meno eversivi e più o meno terroristici. Il fatto che l'elemento che abbiamo ricavato dalla documentazione ritrovata, che abbiamo inserito all'interno del romanzo, è diventato un espediente della nostra fiction, è in particolare una lettera che fu mandata dall'allora ambasciatore italiano all'ONU, Francesco Paolo Fulci, all'allora presidente del Consiglio Ciampi, oltre che ovviamente informato dei fatti anche l'allora presidente della Repubblica Scalfaro, nella quale l'allora ambasciatore italiano all'ONU Fulci, che era stato fino a poco tempo prima membro dei servizi segreti, rivelava o comunque confidava a questi alti referenti cariche dello Stato la presenza di una cellula fuori controllo all'interno dei servizi, formata da 16 persone, perché fece i nomi di 16 persone che, scriveva Fulci, erano particolarmente abili nel maneggiare esplosivi e che avevano firmato con la sigla Falange Armata alcuni degli attentati avvenuti in quell'epoca. Ora, questo, diciamo, dal punto di vista giudiziario si è esaurito con un fascicolo aperto dalla Procura di Roma e archiviato in brevissimo tempo. Però recentemente si è tornati proprio da parte di Ciampi e Scalfaro, Ciampi in particolare, sull'argomento, chiedendo che si faccia luce effettivamente su quello che è accaduto in quel biennio. Quel biennio la democrazia c'è stato un blackout, insomma, non è stato l'unico momento in cui in Italia si è avuto un blackout democratico, ma in quel biennio c'è stato di sicuro. E il punto di partenza, diciamo, di questa consapevolezza da parte di Ciampi è anche questo, vedete, è anche questo documento che noi abbiamo inserito all'interno del romanzo e che diventa, diciamo, una lettera di cui il nostro protagonista, il giornalista Antonio Castellani, entra in possesso grazie alle informazioni di questo uomo misterioso GP di cui parlava Alessandra prima. Ancora qualcuno? Se volete possiamo concludere eventualmente con una lettura con cui vi spieghiamo, è una lettura con la quale spieghiamo le ragioni per cui abbiamo intitolato in questo modo il nostro romanzo. Il titolo è Già sera tutto è finito, è un titolo particolare, diciamo non facile, perché rispetto alla media dei titoli che circolano in particolare oggi è un titolo un po' lungo, è un titolo che nei contenuti certamente non ispira ottimismo e quindi non era facile, diciamo, e il nostro timore che l'editore ci chiedesse di cambiarlo era forte, un po' come, se volete, anche lo pseudonimo di cui prima Mattia vi spiegava le ragioni. Anche rispetto allo pseudonimo abbiamo fatto una scelta che non era propriamente commerciale, qualcuno ce lo ha pronunciato con l'accento sbagliato, ma va bene, qualcun altro ha pensato che fosse il nome di una donna, qualcun altro ce l'ha pronunciato addirittura all'inglese, Tersite. Tersicore. Rossi perché era il cognome più diffuso in Italia e voleva favorire un'immedesimazione. Però il nome Tersite non era facile, lo stesso vale per il titolo, è Già sera tutto è finito, non era un titolo semplice, però nessuno dei due avremmo mai voluto rinunciare, io e Mattia, perché riteniamo che rappresentino un po' il biglietto da visita del nostro progetto. Il motivo per cui non intendevamo rinunciare allo pseudonimo ve l'abbiamo spiegato, il motivo per cui invece non volevamo rinunciare al titolo ve lo spieghiamo adesso con questa lettura. Ecco, da premettere, questa lettura è un breve brano estratto da un diario, perché oltre alle vicende di Antonio Castellani e del gruppo c'è un altro piccolo protagonista, che è un protagonista femminile, e quindi rivendica un po' il ruolo del genere femminile all'interno del romanzo. è una ragazza che frequenta il gruppo, anche se non è, ha solo 14 anni all'epoca, quindi l'età che avevamo io e Marco. Potrebbe essere una nostra compagna di scuola, che frequenta il gruppo, lo guarda da fuori, perché il gruppo ovviamente dei ragazzi di Gasolino è composto da persone che hanno 18, 20, 22 anni, e quindi lei, da brava ragazzina, si ispira un po', si fa anche affascinare con la ingenuità, con la semplicità dei suoi 14 anni. E non all'interno del romanzo, tranne una scena finale proprio nell'epilogo, non agisce, non è, mentre gli altri ragazzi li si vede muoversi, appunto agire, lei la conosciamo, il lettore la conosce esclusivamente dalle pagine del diario che regolarmente tiene e che permette di informare su quello che accade con lo sguardo, ripeto, semplice, ingenuo, ma con questo slancio passionale tipico dei 14 anni. Questo è un estratto del diario del 2 giugno. Gazzolino, 2 giugno 1993. Caro diario, per un'ora ho guardato questo foglio e per un'ora non mi sono deciso a scrivere. Anzi, è da giorni che non mi decido. Pochi giorni fa, infatti, è successo qualcosa che mi ha tolto il fiato. A Firenze, in via dei Georgofili, è scoppiata una bomba. Dicono che l'abbia messa la mafia. Ha distrutto palazzi e opere d'arte preziosissime e soprattutto ha ucciso 5 persone. Perché la mafia lo abbia fatto non lo capisco. Non ho mai letto così tanti giornali come in questi giorni, ma ancora non riesco a capire. Ho chiesto alla mamma e al papà, ma anche loro non hanno saputo che dirmi. Sono spaventati, mi dicono che è un brutto periodo questo. Ma perché? Ho letto su un libro una frase stupenda. Il futuro ha dei puri di cuore con le mani sporche di terra. È un'immagine bellissima. Anch'io voglio essere pura di cuore con le mani sporche di terra. E di polvere, e di tutto quello che c'è in questo mondo. Perché io voglio cambiarlo, questo mondo. Perché non posso più pensare che continuino a morire persone innocenti solo perché alcuni hanno deciso che il potere deve stare in piedi sul sangue. Non posso più scrivere, caro diario. E non piangere, l'ho già fatto io tante volte, anche per te. Non posso più scrivere perché le parole mi sembrano foglie nel vento in questi momenti. Ho bisogno di impegnarmi, di sporcarmi le mani di terra e di polvere. Il gruppo mi aiuterà a cambiare il mondo, lo so. Non so quando lo faremo, ma un giorno accadrà. E allora tornerò a scriverti, per dirti che ce l'abbiamo fatta. Prima di salutarci, però, voglio lasciarti un regalo, come si fa con gli amici. È una poesia. L'ha scritta una delle bambine morte nella strage di Firenze, Nadia, anche se aveva solo 9 anni. Si intitola Il tramonto. Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina. Un momento stupendo. Il sole sta andando via, a letto. È già sera, tutto è finito. Nadia aveva il cuore puro e magari anche le mani sporche di terra. E io? Caro diario, non ti abbandono, perché so che ci rivedremo di nuovo. Nel bene o nel male, dipende, ma ci rivedremo. Un abbraccio. Bene, penso che penso che possiamo chiudere qui, dove, dopo questo esempio in cui, dopo aver parlato anche della storia, e così emerge questo tratto che forse di questa sera non abbiamo parlato, che anche è un libro che commuove, cioè è un libro dove ci sono dei momenti di grande delicatezza e anche di commozione, cioè un vero romanzo dove c'è. Questo è quello. Complimenti, grazie, e buona serata, grazie. Grazie.